picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. La puntata numero 26 di questa avventura, che va in onda ogni venerdì alle ore 20 in punto su Radio Onda d'Urto, picchi di frequenza, non rinuncia a darvi le consuete notizie della settimana e a qualche approfondimento, ma sarà anzitutto un momento così di ricordo, di saluto di Gigi Alippi, che ci ha lasciato in questi giorni. A Line Across the Sky, Downwall, First Look, Dean Potter Tribute e Showdown at Horseshoe Hell sono alcuni dei titoli che troverete in rassegna al Real Rock Film Tour 5 maggio, Val di Mello, ore 20:30 al centro polifunzionale della montagna. Si appresta il Mello Blocco 2016 e arrivano, come di consueto, alcuni tra i più suggestivi film e mediometraggi, insomma, di arrampicata, di montagna, di boulder, insomma un'occasione da non perdere per gli appassionati del genere in attesa del Mello Blocco. Mentre ci spostiamo in Nepal, a Kathmandu per la precisione, per il secondo articolo di quest'oggi. Il titolo è Manaslu Circuit Track, i locali chiedono sicurezza dopo il terremoto. L'articolo si concentra su una breve intervista a Tek Bahadur Gurung di Lapu, che afferma: la strada è pericolosa anche per i muli che vengono utilizzati per il trasporto di beni giornalieri nella regione. E poi prosegue: se il percorso non viene ricostruito prima del monsone, sarà impossibile muoversi durante la stagione delle piogge e l'intera sezione settentrionale del distretto sarà tagliata fuori. Sostanzialmente il trekking del Manaslu, dopo una chiusura di parecchi mesi, è stato riaperto senza che tutti gli interventi di risistemazione e di adeguamento del percorso dopo il terremoto, appunto, di un anno fa ormai praticamente, aveva creato, insomma, i noti danni anche alla possibilità, insomma, di attraversare queste montagne. Chi ci lavora segnala un problema ancora attuale, quindi era giusto darne notizia, tratto da Montagna TV. Mentre sempre da Montagna TV abbiamo un contributo che in qualche misura richiama una degli approfondimenti di qualche settimana fa. Avevamo sentito Zeo presentare il Tour de Géants 2016 e qui invece si passa alle polemiche. Il titolo è Quando burocrazie e apparati invadono la montagna. Da qualche anno in Val d'Aosta è organizzata una competizione che percorre i sentieri sotto le cime dei 4000, il Tour de Géants, che è cresciuta e ha ormai una rilevanza mondiale. La regione non perde il treno per organizzare una gara identica, ma in senso contrario, taglio un po' in obliquo l'articolo, assegnandole il nome di 4K, poco da regione autonoma e molto più da linguaggio smartphone. Situazione paradossale e perfino ridicola, come organizzare due campionati di calcio alternativi e nelle stesse date. Adesso si passa ai tribunali, alle pugnalate dietro le spalle, alla peggiore immagine sulla montagna che possiamo immaginare. Al di là del discorso etico e politico sulla corsa in montagna, vediamo che anche qui ogni gara diventa occasione per un marketing del territorio che non guarda in faccia a nessuno. Insomma, sono tanti altri gli approfondimenti che si possono trovare in questa settimana di montagna, ma noi invece passiamo ad un momento musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata, che, come anticipavamo, è dedicata al ricordo di Gigi Alippi. Thank you. Ho conosciuto Gigi circa un anno fa, poco di meno. Insieme a Luca, un canturino dell'Ape di Milano, eravamo a fare sopralluoghi nella zona dei Piani Resinelli alla ricerca di uno spazio per il campeggio estivo. Avevamo intenzione in luglio di riproporre quella stessa tendopoli o cittadinopoli, come arrivò a chiamarsi intorno alla metà degli anni 20, che le tante sezioni dell'associazione Proletari Escursionisti promuovevano in giro per il Lecchese durante l'estate, per dare la possibilità ai tanti apeini, allo sciame, di incontrarsi almeno una volta all'anno. Volendo riprodurre quell'esperimento, allora andiamo ai Resinelli. Luca è il nipote di uno dei gestori dell'alveare alpino e cominciamo a cercare. Valutiamo un campo, poi l'altro, le proprietà, chiediamo in giro. Poi Luca dice: ma perché non andiamo al rifugio Alippi, che poi è la sua casa nonché un ex campeggio? Io non lo conoscevo se non di nome, perché Gigi Alippi è uno dei protagonisti della prima ascensione alla parete sud della McKinley. Tra l'altro ne abbiamo parlato proprio in occasione delle primissime puntate di Picchi di Frequenza, attraverso un'intervista a Gigi. Questo perché Obama, dopo oltre un secolo, aveva restituito proprio in quelle settimane, parliamo del mese di settembre, al Monte McKinley il nome originario, il nome indigeno di Monte Denali. All'epoca i nomi che compongono la spedizione sono quelli, insieme a Gigi, di Annibale Zucchi, Luigino Airoldi, Romano Perego e Jack Canali. A guidare la spedizione, che per la prima volta sale lungo la parete sud, il Monte Denali, nel 1961, era Riccardo Cassin. Il primo approccio è scomodo, praticamente gli entriamo in casa senza preavviso. Gigi era in cucina e prepara il caffè chiedendoci chi siamo. Siamo dei milanesi e per Gigi, che è un ragno della grignetta, i milanesi sono sempre un po' degli ospiti scomodi, quelli che parlano della montagna senza viverci, mentre lui è uno che ai Resinelli ci è nato, ci è cresciuto e quando non voleva più studiare, insomma, ha continuato a provare ad andarci in montagna. Non ha cominciato da giovanissimo, proprio in quell'occasione lui ci raccontava che fino ai 20 anni, ed è una cosa strana per un personaggio, come dire, che rimane così scolpito nella nostra memoria, lui la montagna non l'aveva guardata con grande passione. Poi lo coinvolgono per andare a fare un'arrampicata, per andare a rocciare, e si accorgono che è capace. E da lì comincia l'avventura ogni volta che è possibile, fino a quella spedizione nel 61 che in qualche misura cambierà fortemente la propria vita. Ma non solo di Monte Denali si parla: le Grigne, il Cervino, il Gran Capucin e via discorrendo, il Lozze, il Monte Bianco, il Rosa, il Pizzo Badile, gli articoli che in questi giorni ricordano la sua esperienza, insomma, sono colmi delle tante salite che l'hanno lasciato scolpito nella nostra memoria. Un paio d'anni fa, per le edizioni di Alpine Studio, Gigi esce con un libro dal titolo Il profumo delle mie montagne, che passa in rassegna questa sua esperienza. E la cosa curiosa è che in quel pomeriggio di primavera, giunti al rifugio Alippi, fu proprio un libro ad aprirci le porte di casa. Lui ci chiede chi siamo, io gli dico: guarda, ho scritto un libro sulla storia dell'ape. Luca è il nipote dell'ex gestore del rifugio alveare alpino. Lui fa: anch'io ho scritto un libro, Il profumo delle mie montagne, e i libri ce li scambiamo. Quando, dopo qualche mese, Gigi ci ha effettivamente ospitato in occasione del campeggio che si è tenuto presso la sua casa, in tempo 2 giorni aveva letto il libro e gli era piaciuto, e noi gli abbiamo chiesto di accompagnarci nelle 2 serate del campeggio con i filmati e i ricordi delle sue esperienze. Ed è stato questo il primo campeggio della neonata Ape Milano, un momento che guarda al futuro della nostra associazione, della nostra esperienza, ma che era ben piantato nei ricordi di Gigi Alippi. But everybody calls me Giorgio. Non è soltanto un libro a metterci immediatamente in un contatto empatico con Gigi, ma è anche un'amicizia comune, quella con Gianluigi Sterna, ex apeino e anche egli accademico del CAI. Con lui ricordiamo il 1986, perché parecchi anni, 25 dopo la McKinley e a 40 anni dalla nascita del gruppo dei Ragni della Grignetta, parliamo di Bartesaghi, Spreafico, Emilio Ratti, evidentemente Gigi Vitali, il Ragno, nel 1986 appunto in Terra del Fuoco vengono organizzate una serie di spedizioni cerimoniali. Una di queste è l'ascesa alla cima ovest del Sarmiento, insieme a Torre Panzeri, a Mazzoleni, a Castelnuovo, a Pennati, c'è proprio un non più giovanissimo Gigi Alippi, e questa è un'altra delle imprese, delle scalate, insomma, che abbiamo avuto occasione di farci raccontare in privato e durante gli incontri in una maniera assolutamente potente. Lo scorso mese, in occasione di una delle iniziative dell'Ape di Brescia, avevamo invitato Gigi ad essere con noi per una serata appunto di racconto e di presentazione a partire dalle memorie raccolte nel libro. Il malore che lo ha colpito pochi giorni prima ha fatto, insomma, rinviare sine die l'iniziativa, e quindi questa puntata è anche un po' un omaggio a tutto quello che ci ha regalato, affinché anche così, anche con le onde di questa nostra trasmissione radiofonica, possiamo proseguire il racconto delle storie di Gigi. Sei mesi fa risento telefonicamente Gigi, l'occasione era un'intervista per Alpinismo Molotov, ma era anche la prima puntata, il pilota di questa nostra trasmissione. La chiacchierata registrata racconta di quella spedizione del 61 in Alaska, sulla montagna più alta del Nord America, una spedizione denominata Città di Lecco, perché i Ragni erano i grandi protagonisti del momento, e queste sono le parole con cui lui commentava la restituzione del monte indigeno al Denali. Io penso che il ripristino originale del McKinley in Denali sia molto giusto, perché noi molte volte tendiamo a cambiare l'originalità della nomenclatura, diciamo così, delle montagne, no? Ma prima di noi sono passati altra gente, specialmente i locali, i quali hanno dato un nome alle varie montagne, e quindi io sono molto contento che si sia ritornati all'originalità. Vorrei fare un esempio, specialmente sulle montagne del Perù, in Sud America. Il Chaltén è stato ripristinato e io sono molto contento, perché circa 2000 anni fa gli indios locali sono arrivati giù, no? E hanno dato i nomi ai vari sentieri che hanno conquistato, e io mi immagino allora, con i mezzi di allora, che non c'era niente, e sono arrivati lì e hanno dato questi nomi. In Perù molte spedizioni nostre, sono andate giù e ha cambiato, diciamo così, il nome originale di alcune montagne. Quelli che, diciamo così, erano vergi, che non avevano nessuna, come dire, nessun nome, possono anche accettare che si possa dare il nome, so, città di Milano, città di, ecco, che, come dire, a ricordo e a riconoscenza, diciamo così, della spedizione alla quale tu appartenevi, no? Ecco, questo lo posso capire, però cambiare il nome dell'originale mi sembra assurdo, mi sembra illogico. Io sono per l'originalità. Un altro esempio, proprio sotto il naso, qui in Grignetta, dico, delle torri che a un certo punto hanno cambiato nome in rapporto con l'originale, e a me è dispiaciuto, e naturalmente adesso andrà col nome moderno. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. Peraltro, ecco, quello sulla denominazione delle montagne è anche un tema di conflitto, è stato così anche per la Vetta d'Italia, insomma ci sono tanti esempi. La seconda cosa che volevo chiederti era invece per quanto riguarda all'epoca, nel 61, oggi questa è materia evidentemente di dibattito, all'epoca ci si pensava, c'era uno scambio di pareri, ci si interrogava anche sullo stesso tema, oppure è un qualcosa, insomma, che è venuto in tempi molto più recenti? Quello che io ricordo è che a un certo punto, come dire, McKinley è entrato così nella fonia, nell'orecchio, un po' in tutto il mondo, no? Ma dietro c'era questo Denali, insomma, che secondo me era più importante, sempre per i motivi che ho detto prima, insomma. Dico, noi abbiamo accettato, come dire, McKinley, nella storia attuale, diciamo così, è rimasto McKinley nei nostri ricordi, nei nostri filmati, nei testi, così, che sono stati scritti a proposito della conquista di questa grande montagna, questa grande parete, è rimasto McKinley. La Grigna. Su queste rocce sono cresciuti e sono passati i più famosi alpinisti italiani. Qua sono nati i ragni di Lecco, le cui imprese fanno ormai parte della storia dell'alpinismo mondiale. Sono queste rocce che hanno fatto di Lecco una fucina di scalatori. Più di un lecchese aveva preso parte a precedenti e pur importanti spedizioni extraeuropee, confermando le tradizioni alpinistiche della propria città. Però una vera e propria spedizione non era ancora nata e partita da Lecco. Nei primi mesi del 1961, la sezione di Lecco del Club Alpino Italiano dava il via alla realizzazione di una spedizione in Alaska. Meta, la parete sud del Mount McKinley, la più alta montagna del Nord America, coi suoi 6.187 metri. Dall'idea di Mauri, infortunatosi in un incidente sciistico alla vigilia della realizzazione pratica del piano organizzativo della spedizione, i dirigenti del sodalizio lecchese passavano allo studio e concretizzavano il programma dell'impresa, da portarsi a termine nei mesi di giugno e luglio. McKinley 1961 è anche il titolo di un vecchio film, inaugurato, aperto dalle parole di Cassin, che vive delle immagini originali riprese dai membri durante la spedizione. Questi sono alcuni brevi frammenti che restituiscono un pochino quella che era l'atmosfera dell'epoca. Per 4 giorni Cassin e i suoi uomini soggiornano a New York, che li disorienta con le sue maestose costruzioni e con il traffico intenso. È la città delle mille razze e dai molti contrasti. Pur non conoscendo l'inglese, i lecchesi se la cavano brillantemente parlando in dialetto e non lasciano inesplorato neppure un angolo della grande metropoli. Non immaginano che tra pochi giorni lo stesso presidente Kennedy si interesserà di loro, facendo pervenire le sue congratulazioni per la conquista della sud del McKinley. Pur conducendo vita ritirata, i lecchesi vogliono conoscere anche la vita notturna di Broadway. Cassin annota nel suo diario: ci sono giochi di luci e un movimento tale da uscirne ubriacati dopo mezz'ora. Finalmente, il 9 giugno 1961, con un veloce balzo a bordo di un jet, tutti i membri della spedizione atterrano in Alaska, dove in questa stagione il sole non tramonta mai. È questa la vecchia Alaska, che non ha ancora risentito del piano di colonizzazione messo in atto dal governo americano, da quando questo territorio è entrato a far parte degli Stati Uniti d'America come 49esimo Stato. La gente di questo piccolo paese, Cacheviot, vive con le risorse della pesca che viene effettuata a bordo di barche costruite con pelli di tricheco. Per una delle prossime puntate di Picchi mi riprometto, anzi vi prometto, un montaggio dell'incontro che avemmo con Gigi proprio ai Piani Risinelli davanti alla sua casa. Però oggi vorrei chiudere con un brano ancora tratto dal documentario del 1961 che, meglio delle mie parole, meglio di ogni retorica, meglio di ogni articolo che è stato pubblicato in questi giorni, può raccontare un po' chi era Lippi, qual era il suo stile, quale fu il contributo di Gigi e per quale motivo oggi lo vogliamo ricordare e raccontare con questo affetto. L'impresa è stata coronata dal successo, ma le fatiche dei sei non sono terminate. C'è ancora da percorrere la via del ritorno in un clima infernale, in condizioni fisiche precarie a causa degli sforzi sopportati nel corso di tutta la salita. Le condizioni di canali peggiorano e sono evidenti i primi sintomi di congelamento ai piedi. Anche qualche altro accusa freddo agli arti interiori. Cassin esorta Canali a resistere ed egli con un ultimo sforzo riesce a raggiungere il terzo campo. Sono trascorse esattamente 23 ore da quando gli alpinisti sono partiti da qui per raggiungere la cima. Le prime cure sono per Canali che piano piano si riprende, ma il congelamento è ormai evidente e Cassin, mentendo, lo rincuora dicendogli che non è nulla di grave. Egli vorrebbe però accelerare i tempi e continuare la discesa, ma il maltempo lo induce a desistere. Ammucchiati in tre per tenda, trascorrono la notte. Il giorno seguente, alle 8, nonostante il tempo non sia ancora ristabilito, decidono di affrontare la discesa. Canali non riesce più a calzare gli scarponi e Alippi, con ammirevole spirito di abnegazione, gli cede le sue scarpe di renna e, consapevole del rischio che corre, affronta la discesa incordata con gli altri senza ramponi e senza scarpe. Scenderà, con i piedi riparati da qualche paio di calzettoni, dal terzo al secondo campo, dove troverà un paio di scarponi di scorta. A tre giorni dalla conquista della parete sud, i lecchesi sono tutti al campo base. Il tenace e valoroso Canali, pur minorato dal congelamento, ha raggiunto con le sue forze il campo base. Solo grazie alla sua ferrea volontà ha potuto scongiurare gravissimi rischi a se stesso e ai compagni, rischi che tutti avrebbero corso se fosse stato necessario il suo trasporto nella discesa della difficilissima parete. But if that's ice, just hop on my extra work for don't want now. Got that. and I don't want none. What if I don't jail? Extra work for don't want none. Got that right. Anche questa puntata, ed è la numero 26 di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io, come di consueto, vi invito a idee, segnalazioni, critiche, suggerimenti, insomma un po' quello che vi pare. Anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, all'account @abuzzo3 sul social network azzurro o alla pagina Picchi di Frequenza su quello blu. Noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto. Io spero che oggi non ci stiate seguendo in FM o in streaming, perché significa che siete con noi alla biblioteca di Concesio, dove stiamo presentando Sentieri Proletari, la lunga storia dell'associazione Proletari Escursionisti, anche perché avete l'occasione di recuperare questa e tutte le altre puntate in archivio sul profilo Spreaker, che trovate appunto sugli account prima segnalati. Noi ci risentiamo il prossimo venerdì alle ore 20 in punto con Picchi di Frequenza sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.